E. Ascolta e completa il dialogo. Hai fatto la spesa per caso? No, perché? Che cosa ci serve? Beh, domani è il compleanno di Lorenzo e gli vorrei preparare una torta al cioccolato. Allora non ti bastano le uova. In frigo ne abbiamo solo due. Già, con due uova posso preparargli una torta piccola piccola. Devo uscire, prendo io le cose necessarie. Allora ti ci vuole la farina, lo zucchero, una confezione da 12 di uova, il cioccolato amaro. Poi? Nient'altro, poi abbiamo tutto in cucina, non ci manca altro. E quando ho tutti gli ingredienti, mi ci vuole meno di un'ora a prepararla.